E così quando vi sentite un po' giù di spirito, ci vuole il tiramisù. E io ve ne ho presentati tre, li potete scegliere, su tre, almeno uno, magari tutti e tre. Confessione frequente, il pentimento immediato per ogni nostro peccato e carità ai poveri, carità ai sofferenti, carità ai bisognosi, non solo bisognosi di pane, bisognosi di una parola di conforto, di un buon consiglio, di un buon suggerimento, di un aiuto, di un servizio, di una mano. Oh. E vedrete come vi tirerete su di spirito. Allora non saranno più per voi quelle tremende parole che vi ho detto e ripetuto dall'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse. Giacché tu non sei né caldo né freddo, io incomincerò a vomitarti, parola di Dio, a vomitarti. No, queste parole non saranno state scritte per voi, perché voi, se vi sentirete non più caldi, infervorati, subito cercherete il rimedio per ripomparvi, per soffiare dentro nel fuoco che divampi ancora, e i mezzi ve li ho suggeriti. Certo, ce ne sono tanti altri, Oh, indubbiamente. C'è chi va in chiesa e fa una preghiera e li passa la luna. C'è chi dice un pezzo di rosario, li passa la luna. C'è chi apre il Vangelo, ne legge 10 righe e li passa. Io vi ho detto quei 3 cose lì, perché le ho sperimentate come veramente segreti per riprendere quota, tornare fervorosi, pronti. Uno dice, ma io faccio la comunione spesso. Sì, ma siccome la comunione sempre non si può fare, la confessione, il pentimento, la carità verso i fratelli, questi li possiamo fare con più facilità. E noi abbiamo bisogno di possedere mezzi di immediato effetto, come questo che vi ho detto, del pentimento, del gesto di bontà, o la confessione frequente, come tirano su questi mezzi. Sono miracolosi. Non mi credete? Fatene la prova. Io sono sicuro di vincere la scommessa, perché l'hanno vinta prima di me milioni di santi. La scommessa. Sono sicuro di vincerla. Ricorrete a uno di questi mezzi e sarete sempre di fervore. Santi si diventa così. Camillo Dellellis, fino ai 21 anni, era stato un ragazzo scanzonato, pieno di soldi, di capricci per la testa. E il giorno in cui Dio gli tocca il cuore e lo converte, va in cerca all'ospedale di Napoli dei più miserabili malati che nessuno aveva il coraggio di toccare. Guarda come questo uomo di mondo cambia immediatamente, e poi diverrà San Camillo Dellellis, il fondatore dei ministri degli infermi. Altri, come vi ho detto, Matte Talbot, si converte con quella confessione famosa in cui ha giurato, prima per 1 mese, poi per tutta la vita, di non toccare più vino e alcolici. Vedete com'è facile vivere un cristianesimo su di giri, pompato. I segreti per crescere ve li ho dati, conservateli nel cuore, fateveli ripetere, fate la scommessa, e il resto della vostra vita sarà come quello dei santi. Santi sacerdoti per me e i miei confratelli, santi laici per voi tutti, nessuno escluso. E così sia.